Questo è un podcast di Rivista Militare. 80 anni da El Alamein, di Carlo De Risio. Capitolo 5. Prologo alla battaglia conclusiva. Il prologo dei quartiermastri è la definizione data da Rommel al periodo compreso tra il fallimento della corsa dei sei giorni e la battaglia conclusiva di El Alamein. Un prologo logistico che i britannici avrebbero vinto fatalmente. L'atteso grande convoglio alleato di 200.000 tonnellate, in realtà una teoria di convogli navali che stavano risalendo il Mar Rosso, era entrato nel Golfo di Suez, rovesciando sui moli dei porti egiziani carri armati, artiglierie, automezzi, montagne di munizioni e milioni di litri di carburante. Ora l'ottava armata era sul serio il più formidabile strumento di guerra che l'impero britannico avesse mai posseduto. Nel deserto egiziano proseguiva intanto l'addestramento degli equipaggi con 300 carri armati Sherman e con i 100 semoventi da 105 mm forniti dagli Stati Uniti. Anche la US Air Force aveva fatto la sua apparizione e avrebbe partecipato con un buon numero di missioni alla prossima offensiva britannica. A petto del rafforzamento senza precedenti dell'ottava armata stava il sempre insufficiente impegno italiano e tedesco per rinvigorire le divisioni schierate sul fronte di El Alamein. La partenza di Rommel, che quando voleva sapeva essere esecutivo oltre che proterpo, aggravò la situazione e Stumm non volle o non seppe farsi valere con gli alti comandi di Berlino e di Roma. Inoltre, sommergibili e aerei britannici continuavano a imporre un salasso insostenibile ai convogli libici. In settembre, su 40.200 tonnellate di carburante destinato alla Libia, ne arrivarono 31.061 e in ottobre andò anche peggio, perché su 25.771 tonnellate ne andarono perdute 12.308. Con l'avvicinarsi dell'autunno e con l'irrigidimento della resistenza sovietica, l'alto comando tedesco non poté privarsi di reparti corazzati da inviare in Africa. Durante la licenza, a Rommel furono mostrati i nuovi carri armati pesanti Tiger, lanciarazzi multipli, nebbiogeni, facendogli credere in un potenziamento della Panzerarmee, che da 2 anni combatteva in Africa settentrionale. In effetti, pochi Tiger fecero la loro comparsa nel teatro di guerra africano, ma nella fase finale della lotta per la Tunisia, quando ormai era troppo tardi per rovesciare le sorti del conflitto nel settore mediterraneo. È giunto il momento di precisare consistenza e dislocazione dell'ACIT, armata corazzata italo-tedesca, e dell'ottava armata mentre si avvicinava il giorno d'inizio dell'offensiva britannica. L'ACIT, nel settore settentrionale, in prima linea schierava il 21esimo corpo d'armata, con il 7° reggimento bersaglieri e le divisioni di fanteria Trento e Bologna. Per tonificare lo schieramento, in considerazione dell'insufficiente armamento italiano, Rommel aveva disposto sul terreno reparti misti alternati, italiani e tedeschi, organizzati in gruppi o zone, Raum. Nei capisaldi, a nord, si alternavano infatti i battaglioni italiani, quelli tedeschi della 164esima divisione e 2 battaglioni della brigata paracadutisti Ramke, tutti trincerati al riparo dei giardini del diavolo, ampi rettangoli di terreno imbottiti di mine e trappole esplosive. In seconda schiera, sempre nel settore settentrionale, erano disposte la 15esima Panzer e la divisione corazzata Littorio. Il settore meridionale era invece presidiato dal 10° Corpo d'Armata italiano, con il 9° Reggimento Bersaglieri, le divisioni di fanteria Brescia e Pavia, la divisione paracadutisti Folgore e altri 2 battaglioni paracadutisti della brigata Ramke. Alle spalle di queste unità c'erano la 21esima Panzer e la divisione corazzata Ariete. Come riserva d'armata, nel terreno retrostante, a nord, c'erano la 90esima divisione leggera tedesca e la divisione motorizzata Trieste, più unità minori, gruppi tattici e reparti esploranti. L'ottava armata britannica aveva invece nel settore settentrionale in prima linea il 30° corpo d'armata, con la 9ª divisione australiana, la 51ª Highlanders, la 2ª neozelandese, la 1ª sudafricana e la 4ª indiana. A sud era schierato il 13° corpo d'armata, con la 50ª britannica, più un gruppo di brigata greco e il 2° gruppo di brigata della Francia libera, la 44ª britannica, e a sinistra di quest'ultima il 1° gruppo di brigata della Francia libera dipendente dalla 7ª divisione corazzata, un'unità famosa, veterana delle precedenti campagne. In seconda schiera, alle spalle del 30° corpo, c'era il 10° corpo d'armata, con le divisioni corazzate 1ª e 10ª, mentre alle spalle del 13° corpo era disposto il grosso della 7ª divisione corazzata. Alle dirette dipendenze del comando d'armata c'erano inoltre una brigata indiana per l'apertura di varchi nei campi minati, una brigata corazzata, due brigate di artiglieria contraerei e una brigata di fanteria indiana. Riassumendo, a parte le unità minori, si trovavano di fronte 12 divisioni italo-tedesche, 4 delle quali corazzate, e 10 divisioni britanniche, di cui 3 corazzate. Ma un computo numerico pure e semplice delle divisioni non rispecchia assolutamente l'effettivo rapporto di forze. Scomponendo il dato relativo ai carri, come sempre protagonisti principali della guerra nel deserto, si ha un'ulteriore riprova della disparità delle forze. Le 3 divisioni corazzate britanniche ed i reparti autonomi di carri allineavano 285 Sherman, 246 Grant, 421 Crusader, 167 Stuart, 223 Valentine e 6 Matilda. C'erano anche 3 carri da fanteria Churchill, i primi esemplari inviati in Africa. Su 497 carri dell'asse, 239 erano carri medi e 20 carri leggeri italiani, assolutamente inidonei a reggere il confronto con i carri Sherman e Grant di costruzione statunitense e nemmeno da contrapporre ai Crusader. Per lo stesso motivo vanno esclusi i 30 Panzer II tedeschi, mentre dei 170 Panzer III avevano un qualche peso quelli armati con un cannone da 50 lungo, 50 su 60. Sul piano statistico, gli unici carri validi erano i 38 Panzer IV tedeschi, alcuni dei quali armati con il 75 lungo, 75 su 43. Validi erano anche i pochi semoventi italiani da 75 su 18, assegnati all'Ariete e alla Littorio. Ai numerosi controcarri britannici da 57 mm, gli italiani contrapponevano gli ormai superati 47 su 32 e i tedeschi, gli altrettanto inefficaci contro i carri statunitensi, 50 su 35. Ottimo era sempre il pezzo da 88 su 55 tedesco, vero atu del secondo conflitto mondiale, in considerazione della polivalenza del pezzo contro aerei e controcarri, come era ottimo il pezzo italiano da 90 su 53. Schiacciante la superiorità quantitativa e qualitativa dell'artiglieria campale britannica, tanto più che il parco di artiglieria italiano era ancora basato su vecchi cannoni e che i complessi moderni erano pochissimi. Nettissima la superiorità della RAF, con 1200 aerei, 800 di prima linea, contrastati da circa 700 aerei italiani e tedeschi, 150 caccia, 180 bombardieri a tuffo e cacciabombardieri e 400 velivoli di altro tipo. Il podcast di Rivista Militare, 80 anni da El Alamein, vi dà appuntamento al prossimo episodio.